in primo piano. Eh sì, a differenza di ieri, oggi non ci sono aperture differenziate, l'ansia cresce e tutti aprono con la febbre dei maiali. Altri filoni significativi tra i quotidiani di questa mattina: i numeri della popolazione in Italia, gli immigrati e la durata della permanenza nei centri, i rifiuti di Napoli che potrebbero ritornare, uno scontro che si annuncia sulle scuole private in Italia e ancora tanti articoli sulle soubrette, candidate o meno nel Popolo della Libertà. Dicevamo, non ci sono alternative sui titoli principali. Iniziamo dalla Stampa: febbre suina, rischio pandemia. Gli Stati Uniti accusano il Messico, ha tenuto nascosto il diffondersi del virus. Più o meno questo è il cuore per tutti, oltre al fatto che l'influenza è arrivata in Europa. Scrive Mario De Aglio sulla Stampa: crisi sanitaria e crisi finanziaria hanno molti aspetti in comune. È un editoriale che associa due grandi paure, ovviamente diverse, ma con qualche punto in comune, dice De Aglio. Vediamo quali. Niente vaccini contro la febbre, nessuna ricetta valida per bloccare i danni legati all'insuccesso dei mutui subprime. Il secondo è la rapida mutazione della causa, il virus si intende, è la rapida mutazione della causa iniziale. Ci hanno già informati che il vero pericolo, tutto sommato, non è il virus suino nella sua forma attuale, ma l'elevata possibilità di mutazioni più grave e aggressive. Partendo dal solo settore delle abitazioni povere degli Stati Uniti, il virus finanziario dei mutui subprime ha subito in due anni, diverse mutazioni, estendendosi all'intera edilizia abitativa di quel paese. Di lì si è insinuato nei bilanci delle banche che avevano prestato soldi su garanzie immobiliari e ha provocato enormi perdite contabili e indotto gli operatori finanziari al sospetto reciproco. In definitiva, in un mondo in cui si pretende giustamente la trasparenza finanziaria, ci starebbe bene anche un poco di trasparenza sanitaria. Il cittadino ha l'impressione che nella sanità come nella finanza qualcosa gli possa essere celato, e non è con le reticenze che si esce dalla crisi, né di un tipo né dell'altro. E quindi si procede con questo paragone, chissà se poi tanto ardito, tra i vari virus, quelli reali e quelli apparentemente metaforici come quelli dell'economia. Un'altra strada che i giornali percorrono è quella dei ricorsi storici. Sul Sole 24 Ore questa mattina c'è un interessante articolo di Marco Magrini che dice, a proposito della febbre suina, un virus che accompagna e fa la storia. Aprile 1919, Wilson, presidente degli Stati Uniti, è a Parigi per gli ultimi dettagli del trattato di Versailles. Sulle prime c'è il timore che sia stato avvelenato, invece è influenza. Non è un'influenza qualsiasi, ma la terribile spagnola, la quale risparmia al primo cittadino americano che resta seriamente debilitato proprio mentre si scriveva l'epilogo della prima guerra mondiale, ma uccide un suo assistente. Anche i virus nel loro piccolo fanno la storia. Il virus che di recente è trasbordato da un maiale messicano a un essere umano discende dallo stesso virus che potrebbe aver cambiato qualche passaggio del trattato di Versailles. Così il Sole, anche il Corriere volendo. L'uso della mascherina igienica viene da lontano. I medici della peste nella Venezia del 1600 visitavano gli ammalati senza toccarli e proteggendosi il volto con una maschera di cuoio o cartapesta con un becco riempito di spezie. C'è un vago sentore da fine del mondo su alcuni quotidiani. Proseguiamo sul tema ancora per un attimo. Il Foglio torna all'origine della febbre, cioè gli allevamenti industriali di maiali in Messico. Alcune domande da porci, e qui c'è anche, credo, un gioco sull'accento, da porci. Nati a centinaia negli ultimi anni in Messico, sono enormi scatoloni per l'allevamento super ristretto e intensivo dei maiali secondo procedure industriali. Suini stipati a 2500 per capannone, alcuni stabilimenti ne allevano assieme centinaia di migliaia, e manodopera al lavoro in ambienti saturi di germi patogeni. Secondo un sito specializzato nel seguire le traiettorie e la diffusione delle malattie, questo nuovo ceppo mortale di febbre suina arriva proprio da uno stabilimento di questo tipo di una azienda messicana subappaltatrice dell'americana Smithfield Foods and Perote, un allevamento da 56.000 scrofe fattrici che nel 2008 da solo ha allevato e venduto 950.000 maiali. I problemi laggiù sarebbero cominciati già da tempo, almeno un mese, scrive il Foglio. In Messico gli allevamenti industriali sono bombe biologiche. Per chiudere con questo, come dire, un po' inquietante carrellata, c'è anche chi è come dire, più scettico e dice: arricchirsi col virus, l'allarme mondiale dopo i casi di morte per la febbre suina fa scattare la corsa ai vaccini, è libero, un grande business come era successo durante l'emergenza per il rischio, aperte le parentesi, inesistente, chiusa parentesi, SARS. E sono altre le epidemie che fanno strage, è un altro articolo che ospita Libero in prima pagina. Eccoci qua, poi al termine della rassegna stampa torneremo ancora a Città del Messico per leggere un reportage, però per il momento spostiamoci e passiamo, torniamo alla stampa e alle scuole private. È una decisione dell'Agenzia delle Entrate, figli alle private, allora sei ricco, la scelta didattica vale come le superbarche o l'iscrizione ai circoli esclusivi, gli elenchi degli studenti potrebbero essere controllati dallo 007, dagli 007 delle tasse. C'è un'intervista al cardinale Zenon Grocelewski, prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che è molto arrabbiato. La Polonia comunista non avrebbe osato tanto, è un'inaudita violazione dei principi costituzionali di tutte le convenzioni internazionali, dice il cardinale polacco. Scegliere la scuola per i propri figli è un diritto inalienabile dei genitori, non un indice di ricchezza da equiparare fiscalmente ai beni di lusso. È inconcepibile che mandare un figlio in un istituto cattolico diventi indice di ricchezza al pari di una barca di lusso o dell'abitudine di fare vacanze in località esclusive o addirittura indicatore di redditi nascosti non dichiarati. La circolare dell'Agenzia delle Entrate deve poi essere confermata e comunque l'ipotesi è che l'educazione rientri nel redditometro degli italiani, così la stampa che dedica due pagine alla questione. Un altro argomento che ha spazio questa mattina sui quotidiani riguarda i numeri degli italiani. Ieri sono stati diffusi i dati, siamo più di 60 milioni, scrive il Corriere, popolazione record, oltre 7 stranieri su 100, i residenti superano la soglia appunto dei 60 milioni. C'è un'intervista ad un demografo sul Corriere della Sera, Antonio Golini, che dice: un'immigrazione di questa portata non è sostenibile. Intanto oggi saremmo di meno senza immigrati, circa 4 milioni e mezzo, ma soprattutto non era immaginabile un simile flusso di immigrazione in Italia. In 6 anni le Nazioni Unite hanno dovuto cambiare 4 volte le previsioni per il nostro paese. L'ONU ogni 2 anni calcola le proiezioni delle popolazioni del mondo e per l'Italia in 6 anni le ha modificate di ben 12 milioni relativamente al 2050. Nel 2002 pensava saremmo stati circa 45 milioni, ora ha superato quota 57. È una pressione non sostenibile da un punto di vista sociale ma anche previdenziale, dice questo demografo intervistato dal Corriere. Il riequilibrio previdenziale dovremmo farcelo da noi, intende gli italiani, puntando sull'occupazione femminile e soprattutto sui giovani anziani. Sì, i 55-65 anni in Italia lavora soltanto il 30% di loro, in Svezia nella stessa fascia si schizza al 60-65%. Così dal Corriere della Sera. A questo proposito, indirettamente, passiamo al Messaggero, che ospita un'intervista del ministro della Difesa La Russa, che dice: immigrati irregolari fino a 18 mesi nei centri, il numero degli sbarchi non è proporzionale alle capacità di un governo di proporre una normativa, qualunque tentativo di sbarco prescinde dalla legge che c'è. In ogni caso nessuno può dire che senza l'azione del governo il numero dei tentativi non sarebbe stato il doppio. E io comunque ritengo che c'è assolutamente bisogno di una politica più forte sull'immigrazione. Io contesto addirittura la morbidità sul tema dell'immigrazione e scavalco di gran lunga Maroni e la Lega. Dico infatti che bisognerebbe tenere i clandestini nei centri fino a 18 mesi. Occorre infatti avere il tempo per identificare quelli che fanno di tutto per non essere identificati. I clandestini avrebbero un modo semplice per rimanere non più di un giorno nei centri d'accoglienza, dire la verità sulla propria identità e provenienza. Ma questo non succede. L'Europa consente una permanenza dei clandestini nei centri fino a 18 mesi, è per questo che io parlo di 18 mesi. Se l'Europa dicesse che il clandestino deve rimanere a vita finché non si accerti la sua identità, io direi che è morale che resti a vita. Così il ministro della difesa Ignazio La Russa a proposito della permanenza nei centri. In prima pagina sul Messaggero una notizia di cronaca che fece molto scalpore: aiutarono gli stupratori di Guidonia, sono già tornati in libertà, le maglie larghe della giustizia. Si tratta di due persone accusate di favoreggiamento che sono uscite dal carcere perché il reato prevede 3 mesi di carcerazione preventiva. A questo proposito, sul Manifesto c'è un'intervista a Francesco Taurisano, il presidente del Tribunale del Riesame di Roma, colui che ha scagionato i due presunti stupratori della Caffarella, e poi non erano loro. Caffarella, fabbrica di mostri, scrive il Manifesto. Come è potuto accadere che per 20 giorni due innocenti siano stati ritenuti colpevoli dello stupro? La mia opinione, risponde il magistrato, è che l'inchiesta è stata piegata alla necessità di rispondere rapidamente all'emergenza sociale. Adesso ci fermiamo per un attimo, la linea alla viabilità. In primo piano. Si riprende la rassegna stampa e riprendiamo dal Sole 24 Ore. C'è spazio anche ovviamente per diverse altre notizie oltre a quella della febbre. Il Sole dedica un'ampia analisi alla mossa di cui si sta arrivando appunto al dunque della Fiat negli Stati Uniti. Torino-Detroit, ora sfida tecnologica. Marchionni scommette sul boom delle piccole ecologiche. Le grandi alleanze dell'auto riescono una volta su 10, sia Fiat che Chrysler sono reduci da 2 esperienze negative, la prima l'ha avuta con General Motors, la seconda con Daimler. Anche il caso più positivo, quello di Renault e Nissan, ha vissuto di recente momenti meno brillanti. Le capacità gestionali di leadership di Sergio Marchionne verranno messe a dura prova. La crisi dell'ex numero uno mondiale General Motors dimostra che l'essere i più grandi non è una garanzia di successo. Anche qui Marchionne ha la risposta pronta. Le dimensioni gestite bene sono positive. La crescita che punta a creare un impero non ha senso. E io non ho fatto intenzione di creare un impero. Così, a proposito della settimana decisiva della Fiat negli Stati Uniti. Dal Corriere invece vi segnalo una notizia decisamente importante che potrebbe avere nella giornata di oggi qualche sviluppo, forse decisivo. Stati Uniti-Svizzera, si tratta sul segreto bancario, il caso UBS diventa politico e Berna sembra pronta ad una svolta storica. Anche se al tavolo che si aprirà oggi a Berna si siederanno solo gli Sherpa del Tesoro statunitense della Confederazione Elvetica, la trattativa sui 52.000 clienti top americani del colosso svizzero UBS sarà seguita momento per momento molto più in alto dal segretario di Stato USA e dal presidente svizzero Merz, cioè dalla politica, e probabilmente anche dai vertici delle principali banche di Zurigo e Ginevra e da molti altri portafogli interessati in giro per l'Europa. In gioco c'è troppo, non solo i clienti del colosso bancario finito in contrasto con il fisco degli Stati Uniti con l'accusa di favorire le frodi sulle tasse dei cittadini americani e la credibilità delle due istituzioni, ma lo stesso segreto bancario svizzero, cioè il futuro del paese. Così dal Corriere della Sera questa mattina. Vi dicevo dei rifiuti, è l'apertura che sceglie l'Unità, in effetti qualcuno c'è che non apre con la febbre suina, ed è l'Unità, l'ecoballa è il titolo, la beffa dell'inceneritore di Acerra, inaugurato dal Premier un mese fa, ancora non funziona, eppure lui dice di sì. Legambiente, presto nuovi, di nuovo i rifiuti in strada, andiamo a vedere che cosa sostiene Legambiente, in particolare il presidente di Legambiente in Campania, Michele Buonomo, intervistato dall'Unità. In autunno torneranno i rifiuti sulle strade, tutti lo temono, temono che possa tornare la fase critica dell'emergenza. Sia chiaro, l'emergenza non è mai stata superata in Campania, è stata risolta momentaneamente la fase critica, ma senza misure strutturali. Gli si chiede come stanno andando i 200 comuni che riciclano molto i rifiuti in Campania. Malissimo, è la risposta. Da una parte rischiano di perdere i 300 milioni dell'Unione Europea per via di una procedura di infrazione comunitaria, dall'altro sono stati costretti a portare la frazione organica della propria immondizia differenziata in Sicilia a costi che arrivano fino a 300 euro a tonnellata. E così si torna a una delle grandi questioni che fu al centro della campagna elettorale ultima delle elezioni politiche. A proposito di politica, vi segnalo dal giornale un'intervista ad Antonio Di Pietro. Di Pietro ha un progetto: costruire un grande partito che di fatto sostituirà il Partito Democratico. Il progetto del Partito Democratico è finito, dice Di Pietro. Voglio fare una cosa seria, serve un grande partito progressista che sostenga una proposta di governo credibile. È già un evento che il giornale intervisti Di Pietro, e Di Pietro in questa intervista si propone come sostituto del PD in crisi, così dal giornale. Dall'Avvenire invece vi segnalo, a proposito di scontri, diciamo, abbiamo visto quello attorno alle scuole private, ce n'è un altro che si prepara, diciamo tra un mondo cattolico e alcune istituzioni pubbliche, riguarda le Marche e la pillola del giorno dopo. Obbligatorio prescrivere la pillola del giorno dopo, diktat delle Marche, scrive l'Avvenire, e che poi dà voce al sottosegretario al welfare Eugenia Roccella, che dice: c'è un problema etico alla pillola del giorno dopo. Non si può dire di no, almeno nelle Marche. Questo è il senso della lettera direttiva che il direttore generale dell'azienda sanitaria unica regionale ha inviato ai direttori delle zone territoriali e dirigenti degli ospedali. Si intervista un giurista, si chiama Alberto Gambino, docente di diritto privato all'Università Europea di Roma, che dice: l'obiezione è sempre un diritto, si riferisce ovviamente ai medici, dubito che la contraccezione possa essere annoverata tra i diritti fondamentali e tantomeno che possa essere un'autorità regionale a dettare regole in materia. Sembra addirittura che la vita sia vista come un disvalore, qualcosa da rifiutare anziché da promuovere come un bene fondamentale. Così sull'Avvenire di questa mattina, che è l'unico quotidiano che dà spazio a questa notizia. Concludiamo con Repubblica e ritorniamo al punto di partenza. Ancora una grande foto, sempre vagamente inquietante, di militari messicani armati di tutto punto con le mascherine, e andiamo proprio a Città del Messico per chiudere su questi segni. Il mutante dilaga e a Città del Messico il panico cresce, il governo invita alla calma ma i morti salgono di ora in ora, e con loro i dubbi di chi accusa le autorità di nascondere la verità, di non essere preparate a questa emergenza continua. Come non bastasse, ieri è arrivata improvvisa anche una scossa di terremoto e le strade della capitale, svuotate dalla paura dell'influenza, killer dalle scuole chiuse e dai mezzi pubblici ridotti, sono tornate improvvisamente alla vita. Migliaia di persone hanno lasciato le case, uscendo di corsa dai palazzi, urlando la loro rabbia, negli occhi il terrore, misto a stupore. Non ci sono stati danni, ma solo tanta paura. Ci fermiamo qui e, se è possibile, una buona giornata a tutti.